Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Smart City. Torniamo questa sera sul tema dell'acqua, che ci farà compagnia anche domani sera. In particolare vogliamo capire come sia possibile ricaricare le falde acquifere che si stanno progressivamente svuotando. Ecco, dovete immaginare che sono come delle grandi spugne sottoterra, anche a grande profondità, che assorbono l'acqua piovana e l'acqua dei fiumi, e all'interno di queste spugne l'acqua scorre molto lentamente. Può impiegare 50, 100, 1000 anni uno di questi acquiferi a confluire l'acqua, diciamo, dalla parte alta alla parte bassa. Ebbene, che cosa sta accadendo? Che da un lato, a causa delle piogge sempre più concentrate che impediscono all'acqua di penetrare nel suolo, e dall'altro a causa del grande sfruttamento per l'agricoltura, questi acquiferi si stanno svuotando. E quel che è peggio è che, soprattutto nelle zone di confine con il mare, al posto dell'acqua dolce si sta infilando l'acqua salata. Si parla di cuneo salino. Allora, quando questo accade, si danneggia in modo irreversibile, diciamo così, l'acquifero, comunque lo si danneggia in modo strutturale. In più, se al posto di pompare acqua dolce per irrigare i campi noi pompiamo acqua salata, trasformiamo questi campi in deserti. Ecco allora che si rende necessario una gestione degli acquiferi attraverso delle operazioni di ricarica. È un po' un estrema ratio, sarebbe meglio usare bene l'acqua, ma visto che ormai siamo in questa situazione, bisogna pensare anche a come salvare gli acquiferi già danneggiati. E su questo lavora Daniel Nieto, ricercatore dell'OGS, l'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, che è in linea con noi. Buonasera Nieto. Buonasera a voi, buonasera. Allora, bentornato. Adesso ci concentriamo proprio su come ricaricare questi acquiferi. Dunque, lo scopo principale della ricarica artificiale è quella di ricaricare gli acquiferi con l'acqua che c'è in surplus in superficie. In particolare quella che in determinati periodi dell'anno si concentrano con piovosità molto elevate. Questo è un tipo di, diciamo, di prelievo dell'acqua. Quindi c'è la grande pioggia, il fiume si riempie, noi prendiamo un po' di quest'acqua del fiume e ci ricarichiamo, poi vedremo come, gli acquiferi. L'altra possibilità? L'altra possibilità è sicuramente quella dell'utilizzo delle acque reflue. Una depurazione molto elevata, come avviene un po' in tutte le grandi città del mondo, tipo Parigi, l'acqua reflua viene rigenerata, depurata e poi ridistribuita negli acquedotti. Lo stesso discorso ce lo possiamo fare noi in grosse città per quel che riguarda la necessità di fare la ricarica. Ecco, una cosa tra l'altro che pochi sanno è che tipicamente quando c'è un surplus d'acqua questa viene scaricata in dei canali che servono proprio a farla arrivare più rapidamente possibile nei fiumi e da lì nel mare. Lei dice invece no, teniamola da parte per i periodi in cui scarseggia. Ecco, come si fa a ricaricare un acquifero? Dunque, ci sono diverse metodologie. Queste metodologie derivano soprattutto di una grossa esperienza dei paesi come Israele, Stati Uniti, Spagna o Australia. Logicamente che in ogni zona bisogna cercare di valutare quali sono una serie di fattori tipo il clima, le caratteristiche morfologiche e la disponibilità idrica. Uno di questi sistemi proposto da noi nell'ambito di un progetto che poi magari le spiego in maniera più dettagliata è quella di fare delle perforazioni e mettere l'acqua in falda in modo tale che questa possa pian piano infiltrare e possa alimentare la falda. Ce ne sono altri sistemi, come per esempio l'allagamento di determinati tipi di terreno, ettari di terreno dove in determinati periodi dell'anno non è necessario fare irrigazione, oppure possono essere utilizzate delle acque che sono contenute nelle dighe o roba del genere, in modo tale di permettere che quest'acqua, piuttosto che vada direttamente attraverso un canale in mare, possa infiltrarsi molto lentamente sul terreno. Questa seconda tecnica, quella diciamo della dispersione dell'acqua, ci fa intravedere delle sorte di boschi risaie, qualcosa del genere. Esatto, esattamente, oppure in zone dove ci sono escave, dove ci sono terreni non coltivati, utilizzare in maniera più appropriata, evitando anche il problema appunto di quello che sono gli incendi boschivi in questi periodi. Ecco, insomma, per cui vari piccioni presi con una fava. Tra l'altro mi pare che ci siano alcuni tipi di piante che favoriscono questi fenomeni di infiltrazione dell'acqua in profondità. Sì, in particolare sono i piopetti sono molto indicati in zona nostra, logicamente ripeto, dipende dalle caratteristiche del territorio e la zona dove vengono applicate queste metodologie. nel territorio pianura padana, sicuramente questo è un sistema molto appropriato. Senta, c'è appunto un progetto di cui lei è coordinatore, a che punto siete, che cosa state facendo? Dunque, il progetto è un progetto finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma LIFE. Si chiama Water Reboard, che sta per ricarica artificiale delle falde, è una tecnologia innovativa per la gestione sostenibile della risorsa idrica. Attraverso questo sistema stiamo cercando di mettere una serie di metodologie e poi proporle come protocollo di gestione degli acquiferi nell'ambito della Comunità Europea per la ricarica artificiale delle falde. Ci sono due zone campione, una è il Friuli Venezia Giulia e un'altra zona è Emilia Romagna e la zona è Ferrarese. In una facciamo una ricarica diretta della falda, nell'altra cerchiamo di riutilizzare le acque di un depuratore con un'ulteriore fitodepurazione, in modo tale che quell'acqua che indicativamente è al di sopra dei determinati parametri di potabilità possa essere sicuramente potabilizzata e quindi piuttosto di essere dispersa sui canali, come succede adesso quasi in tutte le zone dei depuratori, un riutilizzare nella falda. La zona invece, la zona ferrarese, il problema è l'infiltrazione del cuneo salino, e quindi cerchiamo di fare una specie di barriera di protezione attraverso una serie di pozzi dove mettere l'acqua in eccesso del Po in modo tale che possa fermare l'infiltrazione del cuneo salino e contemporaneamente possa essere utilizzata come riserva d'acqua per il futuro. Va bene, grazie Daniel Nieto e buon lavoro, davvero buon lavoro. Grazie a tutti per averci ascoltato, ci sentiamo domani.